Now is the time to stand with Barack Obama and Joe Biden. La chitarra di Bruce Springsteen, The Boss, ha dato il là alla volata finale di Barack Obama ieri da Cleveland, Ohio, stato dove il candidato democratico ha tenuto comizi in ben 3 città, una mossa calcolata per strappare uno stato che, a detta di molti strateghi, potrebbe rivelarsi decisivo all'interno di un puzzle elettorale che parla sempre più democratico. Secondo il New York Times, Obama ha un vantaggio consolidato di 60 voti elettorali su McCain, cui ne vanno aggiunti altri 70 probabili che lo porterebbero dritto alla Casa Bianca. A livello percentuale, Obama rimane sopra di 6 punti. Le ultime ore hanno dato spazio anche a qualche colpo basso. Obama ha rinfacciato a McCain l'appoggio tutt'altro che desiderato del vicepresidente Dick Cheney. Il senatore è stato ricambiato dai repubblicani, che hanno rilanciato la polemica ormai bollita sulle sue relazioni col controverso reverendo Wright. McCain ha in calendario però un tour elettorale che lo porterà in ben 5 stati. Intanto i repubblicani di Chicago si preparano alla possibile vittoria del concittadino Obama con pragmatismo. Pietro Silvestri, sindaco di Elmwood Park, il sobborgo di Chicago a maggioranza italiana. Come Obama McCain preferisco McCain, ma non è male se Obama vince, non è il fine del mondo come qualche persone pensano. Sergio Nava, GR24, Il Sole 24 Ore, Chicago.